We have had some technical problems. Hit it! 2 0 2 4 2024 2024 In questa puntata di 2024, la casa digitale, con la moltiplicazione di apparecchi che si collegano ad internet, anche nelle nostre case si moltiplicano le reti, col filo, senza filo o la soluzione Powerline. Posso collegare questo dispositivo con questo dispositivo e se sì, tramite quale altro dispositivo? E poi la cassaforte dei dati dove salviamo e proteggiamo le nostre foto, i film, le canzoni o i nostri documenti, le soluzioni con hard disk o quelle online su abbonamento. Questo ed altro a 2024. 2024 2024 di Enrico Pagliarini. Le 15:31 minuti, benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Io sono Enrico Pagliarini. Uno dei sottotitoli che abbiamo nel nostro programma, quello principale sicuramente, è come la tecnologia ci cambia la vita. E sicuramente, se pensate agli ultimi anni, beh, la vita ci è cambiata molto, quella in casa, in ufficio, in mobilità ad esempio. Oggi parleremo delle nostre case digitali, il nostro numero verde 800 24 0024. Ci concentreremo anche sul salvataggio dei dati. Pensate a quanti dati oramai abbiamo sui nostri computer, sui nostri hard disk, e spesso sono dati importanti. Beh, dovremmo preoccuparci un po' di più forse del solito di come salvare e salvaguardare questi dati. Ne parleremo tra poco, una breve anticipazione ve l'abbiamo data nel nostro sommario. Adesso giochiamo con Stefano Gallarini. Video game. Video game. Nuovo appuntamento con il mondo dei videogiochi e come sempre l'inizio della puntata è dedicato alla soluzione del gioco che vi vede coinvolti, gioco della settimana scorsa. Per sconfiggere il mostro di fine livello dovete necessariamente superare i primi due livelli ed ecco quindi le risposte della settimana scorsa. Livello 1. È continuo quello dei giorni e delle notti. La risposta era ciclo. Livello 2. È libero quello di certi sportivi. In questo caso la risposta era stile. Così, mettendo insieme le due parole, si ottiene ciclostile e il mostro di fine livello chiedeva: mostro di fine livello. Era un modo economico di farlo. La risposta era stampa. Andavano bene anche risposte come giornale, fanzine, giornalino, ma la prima risposta esatta è arrivata da Giulio della provincia di Modena. Tra l'altro lui ha risposto proprio con stampa e si porta a casa una gift card da 300 euro. Veniamo invece al gioco di questa settimana e come sempre dovete risolvere i due livelli per sconfiggere il mostro di fine livello e avere quindi la soluzione da inviare a videogiochi@radio24.it. In premio questa settimana un buono da 300 euro da spendere nel punto vendita Expert di Bologna Lame. Livello 1. Lo fa chi accelera il passo. Oggi non vi parlerò di un videogioco in particolare, ma di una novità prodotta da un'azienda che nel 2004 rivoluzionò il modo di giocare inserendo il touchscreen e due anni più tardi lo rivoluzionò di nuovo portando nel gioco il movimento. Oggi è il caso di dire che la rivoluzione è davvero profonda. Parliamo della nuova console portatile 3DS che ha debuttato in tutto il mondo il 25 marzo. Si tratta di una console simile a quella precedente, con un doppio schermo. Il primo, quello in basso, è un touchscreen che risponde quindi ai comandi toccandolo con le dita o con lo stilo incorporato, mentre lo schermo in alto, più largo e con un rapporto di 16 noni, offre la possibilità di una visione davvero tridimensionale senza l'utilizzo degli occhialini.

c'è qualche cosa che si muove anche in Italia e vi racconteremo questo tra poco all'interno di 2024. Numero verde 800 24 0024 per parlare con noi. Se volete gli sms 349 238 6666 oppure naturalmente l'email, potete utilizzarla anche nel corso del programma 2024@radio24.it, ma come sempre vi ricordo che preferiamo ascoltare la vostra voce. Adesso alcune notizie della settimana. Digital News. Gli ascoltatori più fedeli di 2024 ricorderanno Gianfranco Lanci, che è stato più volte davanti ai nostri microfoni. Lanci si è dimesso il 31 marzo dalla carica di amministratore delegato e presidente di Acer, e la notizia, arrivata a sorpresa, ha fatto il giro del mondo, perché se Acer è oggi, pensate, il secondo produttore mondiale di computer dietro ad HP, lo deve essenzialmente alla forte crescita impressa dalla strategia di Lanci. Ed è proprio sulla visione di come l'azienda si dovrà comportare nel futuro che è maturata la rottura al vertice del colosso taiwanese. Lanci avrebbe voluto virare in modo più drastico verso i terminali mobili, tablet e smartphone, mentre il resto del board condivide invece la visione del nuovo numero uno dell'azienda, JT Wang, che ha detto 2 giorni fa: i personal computer restano il nostro core business. E da qui si capisce un po' come intende lui l'azienda. È evidente che Acer sa benissimo che il futuro del computing passa forse già in parte oggi dai tablet e dagli smartphone, ma evidentemente è stata poco coraggiosa nel condividere l'opinione di Lanci. Digital News. La Microsoft ha presentato una protesta ufficiale presso le autorità antitrust europee contro Google, che abuserebbe della sua posizione dominante nel mercato delle ricerche online, ostacolando in vario modo i concorrenti, tra cui ad esempio Bing della Microsoft. Le autorità di Bruxelles, lo ricordiamo, stanno già indagando su Google. Digital News. Sempre la Microsoft ha fatto i complimenti alla Mozilla Foundation per gli ottimi risultati ottenuti dalla nuova versione di Firefox, uno dei programmi per navigare in internet più diffusi al mondo, e per complimentarsi la Microsoft ha inviato, pensate, una torta vera e propria di quelle che si mangiano, seguendo una tradizione che va avanti dalla versione 2 di Firefox. La nuova versione, la 4.0, ha toccato quota 7 milioni di download, battendo Internet Explorer 9, che si è fermata a quota 3 milioni. Digital News. E naturalmente, insomma, avete capito, c'è una concorrenza tra Internet Explorer e Firefox, ed è per questo, insomma, che la Microsoft ha ritenuto opportuno mantenere buoni rapporti e mandare questa torta. Una notizia che arriva dall'Italia: Poste Mobile e la cinese ZTE, dopo aver lanciato lo scorso anno un cellulare con marchio Poste, hanno presentato questa settimana un tablet da 7 pollici, si chiama Tabula, e monta il sistema operativo Android 2.1. Non è proprio nuovissimo questo sistema operativo. Questo tablet è in vendita in tutti gli uffici postali, quindi pensate, 14.000 punti vendita, o sul sito internet di Poste Mobile a 349 euro, ed è sicuramente il prezzo uno dei punti di forza di questo prodotto. Segnalo, e sapete che la cosa mi sta particolarmente a cuore, che anche questo tablet ha la radio FM. Digital News. A proposito di mobilità, è da pochi giorni sul mercato italiano l'Optimus di LG. È uno smartphone molto atteso, che ha un processore, anche questo una novità molto attesa, Nvidia Tegra 2, il primo smartphone dual core al mondo, prezzo 499 euro. Digital News. Abbiamo ancora 3 notizie. Secondo Nintendo, la nuova console 3DS arrivata in Europa il 25 marzo è stata venduta in 300.000 unità nei primi 2 giorni, quindi venerdì e sabato scorsi. Secondo la società giapponese, la 3DS è la console portatile Nintendo che ha venduto di più in un weekend di lancio. Digital News. Poi bisognerà vedere quanto venderà nei prossimi weekend. Circa 1 milione di pagine internet in tutto il mondo sono state colpite da un attacco informatico senza precedenti. In molti casi gli utenti venivano rediretti verso siti di vendita di software. C'è un po' di allarme tra gli esperti in rete. L'attacco ha avuto come obiettivo solo pagine web di siti minori e nessun grande portale o sito governativo. Digital News. La connessione Wi-Fi sui treni Frecciarossa rimarrà gratuita fino al 30 aprile. Le Ferrovie dello Stato e Telecom Italia hanno prorogato la promozione di un altro mese ed è la terza volta. Digital News. Ultima notizia arriva dall'Italia, riguarda la musica, che si conferma uno dei contenuti più richiesti in rete. Da questa settimana anche, pensate un po', S Lunga, nel suo negozio online, perché S Lunga vende molto anche online, ha lanciato il Music Store in collaborazione con Dada Play Me. La musica si ascolta prevalentemente online. Bene, dopo queste notizie, adesso ci fermiamo per circa un minuto, riprendiamo tra poco. Numbers 2024. Numbers. Gli italiani quanto tempo passano su internet? Numbers. 2024. Sono le 15:46 minuti, questo è il sabato pomeriggio di Radio 24, questo è 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Io sono Enrico Pagliarini, a fianco a me c'è Gianfranco Giardina. Ciao Gianfranco, bentornato. Grazie mille, bentornati a tutti gli ascoltatori. Gianfranco Giardina guida il magazine digitale dday.it, che è, possiamo dire, la versione online di 2024? Cioè, anche voi spiegate come funzionano le tecnologie. Sì, sì, lo facciamo ovviamente non solo il sabato, ma tutti i giorni della settimana. Ah sì, certo, da questo punto. Però devo dire che questo col podcast anche 2024. Esatto. Ricordo agli ascoltatori che anche questa puntata del nostro programma sarà disponibile in podcast, che potete utilizzare sul vostro computer, sui vostri lettori MP3, oppure ad esempio, adesso cito già uno degli argomenti di oggi, Gianfranco Giardina spesso mi dice: ma guarda che non è che poi interessa tanta gente, io sono un po' patito per le radio online. Spiego cosa intendo: non le radio che si sentono anche online su internet, anche Radio 24, se voi vi collegate a internet potete ascoltarla in cosiddetto streaming, ma ci sono dei veri e propri apparecchi radiofonici che assomigliano in alcuni casi alle vecchie radio, che hanno o il wifi oppure la porta di rete, si possono collegare. In quel modo alcune di queste radio, ma direi ormai tutte si equivalgono, possono o ascoltare direttamente i podcast, quindi uno va, sceglie Radio 24, sì, sceglie 2024 e si ascolta direttamente il podcast. Sceglie quale puntata sentire. Ascolta. Esatto. Oppure ascolta le radio online. La cosa è più comoda, perché io mi posso mettere questa radio nel bagno, collegata in wifi, io mi ascolto, ad esempio io sono un grande appassionato di musica jazz, smooth jazz, roba del genere, mi ascolto una radio olandese che mi piace molto. Beh, io ascolto Radio 24 in questa maniera, cioè non l'ascolto via FM, l'ascolto via rete. Questo è uno degli esempi di come le nostre case si stanno digitalizzando e soprattutto si stanno riempendo di cose che, Gianfranco, oramai quasi tutto, non dico tutto, però molte delle cose elettroniche che noi abbiamo ormai hanno un ingresso di rete. Sì, o fisico o wifi sono compatibili per collegarsi alla rete, anzi direi che oramai un apparecchio che non si collega a internet e alla rete è visto anche come un qualcosa di vecchio. Basti pensare che esistono, non so, le fotocamere o le videocamere wifi, quindi che sono in grado di scaricare direttamente via wifi sul computer di casa piuttosto che sul TV, direttamente dalla macchina al TV, le fotografie o i filmati direttamente via rete, senza nessun cavo e senza soprattutto nessuna configurazione complicata. Noi diciamo spesso che la rete è fondamentale, l'infrastruttura d'accesso è fondamentale in un paese, ma visto che oggi parliamo della casa digitale, potremmo dire che l'infrastruttura di casa, mentre una volta ci dovevamo preoccupare del gas, della rete elettrica, del riscaldamento, eccetera, eccetera, oggi, dell'acqua ad esempio, oggi dovremmo già in fase di costruzione, questo lo dico perché magari qualcuno sta per comprare casa oppure la sta addirittura costruendo, dovrebbe preoccuparsi della rete. Assolutamente sì, e non cadere nel tranello dove cadono ormai molti, di non preoccuparsi di fare un'infrastruttura di rete, tanto c'è wifi. Questo più o meno è l'approccio, quindi tanto con una rete senza fili copro la casa, non ho bisogno di fare nulla. Questo non è sempre vero, poi magari vediamo anche i casi in cui wifi non funziona o potrebbe non funzionare bene come ci si aspetta, o comunque in maniera adeguata per esempio al traffico video, che è molto più pesante del traffico audio. Sicuramente non avere un'infrastruttura di rete valida in casa sarebbe come avere, cioè, tutta una città cablata in fibra fino all'ultimo miglio e poi non avere l'ultimo miglio, poi non avere l'ultima distribuzione. Ecco, se noi arriviamo anche con un internet potentissima ma in un solo punto di casa, ormai i punti di utilizzo di internet sono talmente tanti, e non solo internet, perché poi c'è tutto l'interscambio dei dati all'interno della casa, che quindi anche non tocca internet, e quindi la stessa cosa vale anche per chi non è collegato a internet ma semplicemente ha dei contenuti su un hard disk che vuole poi vedere su un TV, senza che l'hard disk e il TV siano uno vicino all'altro e collegati da un cavo tradizionale. Senti, una domanda banale: se io devo fare la rete elettrica, vado in negozio, compro la presa e la posso installare nel muro, ci sono per le case digitali anche delle prese Ethernet, quindi prese per la rete internet? Beh, la rete prima di tutto in casa, poi sì, eventualmente sì, anche la rete internet, che si possono installare in casa? Assolutamente sì, si presentano né più né meno come delle prese telefoniche, solo ovviamente il connettore non è il cosiddetto RJ11, quindi quello del telefono un pochino più piccolo, è un pochino più grande il connettore Ethernet, si chiama RJ45, e il frutto è assolutamente identico, anzi in molte ristrutturazioni le canalizzazioni che erano usate per il telefono vengono, diciamo, smantellate per quest'uso e vengono riutilizzate invece con un cablaggio leggermente diverso per la rete internet, Ethernet, diciamo, che poi si collega anche a internet. Questo perché col telefono oramai si dà una copertura wireless molto buona con i DECT, con i telefoni DECT, quindi si tiene una presa, quella principale dove arriva il segnale, si tiene lì magari anche col router ADSL, dove appunto arriva il segnale della DSL. Di lì in poi tutta la distribuzione telefonica viene fatta col DECT, così non si hanno neanche i problemi di avere i filtri ADSL, sì, sulle porte, eccetera eccetera. Cioè, il DECT è il cordless. Il DECT è il cordless, certo, digitale, il cordless che garantisce di non avere grossi disturbi, anzi di non avere affatto disturbi, sì, fino a che c'è portata, ovviamente. Se uno non può o si è dimenticato, oppure vive in una casa vecchia e è un po' in difficoltà nell'avere una rete fisica, lasciando da parte un attimo il wifi, c'è una tecnologia che a me piace molto, che è un po' vecchia tra l'altro, però ancora piuttosto sconosciuta, che si chiama Powerline. Sì, Powerline permette di far transitare il traffico dati sugli stessi cavi elettrici, quelli della corrente elettrica tradizionale, e come ovviamente con un apparecchio che sta a monte, quindi in una spina, e un altro apparecchio gemello, diciamo così, che sta in un'altra spina. Ecco, tra quei due punti si instaura un collegamento di rete assolutamente funzionante nel 99% dei casi. Ci sono alcune topologie di impianto particolarmente vecchie, non ben isolate, dove impianto elettrico intendo dire, sì, dove questo traffico dati purtroppo non ha delle prestazioni adeguate, ma nella stragrande maggioranza dei casi risolve molti problemi, soprattutto per raggiungere quei punti dove senza far lavori è impossibile portare una porta di rete, ma serve tipicamente dietro il TV. Allora, dietro il TV oramai serve una presa di rete, perché TV hanno una presa di rete, perché anche altri apparecchi, le console game per esempio, hanno la presa di rete, ma quasi sempre la presa di rete non c'è, però ci sono le prese elettriche. Allora basta utilizzare una di queste prese elettriche con un adattatore Powerline, collegare l'altro adattatore Powerline nei pressi del router internet, e assolutamente ci si collega sia internet che alla rete locale domestica. Certo. Comunque, se uno può, meglio la rete tradizionale Ethernet. È l'unico sistema che garantisce le sue prestazioni, se ovviamente il lavoro di installazione è fatto a regola d'arte. Certo. Dunque, sapete che da circa una settimana abbiamo iniziato una sorta di giro d'Italia della tecnologia per incontrare i consumatori, per sapere anche il loro parere. La nostra inviata è Maria Chiara Grandis. Ciao Maria Chiara, dove ti trovi questa settimana? Sì, buon pomeriggio Enrico, oggi siamo a Bologna, siamo al punto vendita Marco Polo Expert in via Cristoforo Colombo, e stiamo chiedendo oggi a chi entra qui per curiosare nel reparto di informatica quanto la sua casa sia digitale. Diciamo subito che si tratta di un tema che divide, non ci sono molte vie di mezzo, nel senso che da una parte ci sono gli appassionati che ovviamente sono molto preparati, e poi c'è invece chi non si aggiorna, soprattutto in tema di connessioni, e questo nonostante Bologna sia una città universitaria, e quindi colpisce il fatto che in realtà sia una città molto giovane. Ti do subito qualche dato, nel senso che il prodotto più richiesto al momento sono i tablet, non sfonda invece la radio che si connette a internet e nemmeno la power line, almeno per quanto riguarda le connessioni. Ma sentiamo allora le voci che abbiamo raccolto poco fa. Quanto è digitale la sua casa? Poco, veramente poco. è uno dei fattori principali perché uno, per cui uno sceglie se farlo oppure no. Il costo è la base di tutto. Ad esempio internet sulla televisione non è così interessante, è più interessante sul computer. Una radio che si connette internet non ce l'ho, ma non mi interessa neanche, devo essere sincero. Normalissimo computer, stampante, ADSL, ma no, come nello standard della maggior parte delle famiglie, penso. Beh, sono in minoranza, visto che io sono appassionato delle radio che si connettono a internet, ma penso che siano poco conosciute, che pochi conoscano questi prodotti. Altra cosa interessante, lo diceva anche poco fa nel nostro sistema di comunicazione interna Roberto Scaltritti, che è il nostro tecnico in regia oggi, dice: bellissima questa cosa. Anche Rosa al centralino poco fa, io prima della trasmissione dicevo: guarda, parliamo anche di questo, questa è un'idea molto, molto interessante. Se volete parlare di questo e di altro, poi parleremo anche, ve l'ho già ricordato un paio di volte, di archivio dei dati, di salvataggio dei dati anche online. Dicevo, se volete parlare con noi di questo, chiamateci al nostro numero verde 800 24 0024, vi aspettiamo. Gianfranco, effettivamente questa è una tecnologia vecchia, perché io ricordo di aver parlato delle Powerline un po' di anni fa, addirittura qualcuno aveva provato, l'unica esperienza concreta esiste a Brescia, ha provato a utilizzare la rete elettrica tradizionale per erogare internet al posto della DSL, però purtroppo le distanze degradano il segnale, quindi queste cose vanno bene solo a casa o in un ufficio. Ma, oppure su reti che siano comunque controllate. In pochi sanno che la tecnologia Powerline è utilizzata per esempio tantissimo a livello industriale per tutta l'illuminazione pubblica. Cioè tutte le città, le principali città o comunque le città più moderne, diciamo così, stanno migrando i loro sistemi di illuminazione pubblica dal sistemi dove c'è un omino che a una certa ora accende le luci, a un sistema dove è un computer che dal livello centralizzato gestisce la accensione di tutte le luci, mandando un segnale in Powerline e anche avendo tutto il sistema di monitoraggio dei guasti. Bene, ci fermiamo, adesso ci sono le notizie di GR24, vi aspettiamo tra poco. 2024. Riprendiamo alle 16:05 minuti. Poco fa vi abbiamo domandato quanto tempo passano gli italiani su internet. Io mi sono dimenticato di rispondere, adesso vi do una risposta. Secondo i dati Audiweb febbraio 2011, con 264 pagine viste e 1 ora e 55 minuti di navigazione nel giorno medio, gli utenti tra i 18 e i 24 anni sono quelli che fanno maggiore attività online. Parliamo naturalmente di medie, poi ci sono quelli che passano 8 ore su internet e alcuni pochi minuti. Nella fascia 25-34 anni si abbassa un pochettino la media, ma la media è 1 ora e 47 minuti di navigazione nel giorno medio. Stiamo parlando della casa digitale oggi a 2024. Io sono Enrico Pagliarini, con me c'è Gianfranco Giardina, che guida il magazine online dday.it. E di casa digitale parlano spesso, scrivono spesso, per meglio dire, noi parliamo, loro scrivono di casa digitale su dday.it, si scrive spesso. Gianfranco, tu prima dicevi che non ti convince molto, ma anche io sono della tua idea, che si possa fare una buona copertura della casa con il wifi, cioè laddove è possibile è meglio utilizzare il cavo di rete. Infatti io ad esempio ho parecchi cavi che escono dal mio router, collego tutti gli aggeggi che ho con i cavi e spengo spesso il wifi, poi ogni tanto lo accendo perché effettivamente può essere comodo, ma è vero che con l'aumentare delle connessioni a internet, soprattutto nei condomini, ci sono un po' di problemi di interferenza, giusto? Sì, perché in realtà i canali che non interferiscono tra di loro wifi sono in realtà 3, non sono di più, quindi diciamo che anche se fossero distribuiti tutti in maniera ottimale, alla presenza di una quarta rete sovrapposta, e basta accendere il telefonino in qualsiasi punto di un condominio per vedere che sono molto più di 3 le reti sovrapposte, ecco, ci sono delle reti che si stanno dando fastidio l'una con l'altra, quindi ha delle performance che già sono più basse di quelle del cavo, che possono anche essere sufficienti per molti usi, ma sono comunque più basse, e queste performance possono anche precipitare in presenza di interferenze importanti. Poi tutti i dati di cui noi sentiamo parlare, i 56 cioè tutte le megabit, tutte le velocità possibili, sì. Le wifi B, G e N, ecco, sono intanto half duplex, quindi soltanto in una direzione, quindi o in upload o in download, non mai contemporanee. E poi ovviamente bisogna anche dire che sono performance teoriche, quindi nelle migliore delle ipotesi. Più ci si allontana dal punto, quindi più si va nella stanza lontana, più aumentano i disturbi e quindi le prestazioni poi precipitano. Per non parlare se su questa Wi-Fi, anche la nostra Wi-Fi di casa, ci sono più di un utilizzatore e quindi tanti utilizzatori si appoggiano a questa Wi-Fi. Anche in questo caso le performance precipitano. Il problema è che l'utente non è in grado di controllare né di monitorare cosa sta succedendo alla sua Wi-Fi in maniera costante, comunque non ha garanzie. Il cavo invece dà delle ottime garanzie. Certo, anche questo si satura se io ho dei traffici dati incredibili. Se tutti guardano film online, certo. Chiaro, però dovrei avere moltissimi utilizzatori contemporanei e questo ovviamente non accade. Un'idea può essere quella di avere gli utilizzatori importanti collegati su rame, quindi su rete fisica Ethernet, e degli utilizzatori secondari ma mobili, tipicamente non so, un tablet che ho in casa e lo utilizzo in Wi-Fi e non c'è nessun problema, va da sé, anche perché se pensiamo per esempio alla navigazione web, questa ha un traffico dati che è assolutamente compatibile con il Wi-Fi. La cosa incomincia a cambiare quando incomincia a pensare di fare streaming video, audio, magari di alta qualità, in alta definizione. Sì, sì. Vi ricordo il nostro numero verde 824 0024, è il numero gratuito di Radio 24, gratuito anche dal cellulare, visto che a volte qualcuno mi scrive e mi fa questa domanda. Pensa che la gente... Confermiamo una cosa che ogni tanto diciamo, è tendenzialmente pigra, e in Gran Bretagna hanno fatto una ricerca a proposito dell'utilizzo del Wi-Fi in casa e nonostante molti utenti si rendano conto che la quantità di traffico, quindi la navigazione in internet o le altre cose che si fanno, sia minore, inferiore, più degradata con il Wi-Fi, nonostante ciò dicono ma è talmente comodo che me ne frego e quindi utilizzo il Wi-Fi. Noi tra poco parleremo anche del salvataggio dei dati, perché questo è un altro tassello. Tu dicevi, Gianfranco, non è necessario che siamo collegati ad internet. Certo, oramai è quasi una necessità in molte case, però basta avere un hard disk di rete per scambiarsi dati, magari dal computer del papà al computer del figlio. Assolutamente sì, anzi direi che diventa indispensabile, perché nell'istante in cui noi, le nostre memorie digitali, proprio i nostri ricordi digitali, quindi parlo anche di fotografie, parlo di filmati, parlo anche di testi, perché no? Quindi tutti i nostri documenti digitali sono gli originali e non sono più una copia, una digitalizzazione di un originale poi cartaceo o comunque analogico. Ecco che conservarli in buon ordine diventa assolutamente basilare. Avendo una situazione oramai a più computer nella casa, quindi soltanto il computer che normalmente diciamo il papà si porta a casa dal lavoro, più il computer della famiglia, il computer dei ragazzi, magari anche la moglie ha un suo computer, sapere dove sono questi documenti diventa indispensabile per poterli tenere in ordine e quindi bisogna concentrarli in un punto solo, perché se no se ne perde traccia. Concentrarli in un punto solo diventa anche molto pericoloso, però, perché se quel punto per caso ha un malfunzionamento, quindi un hard disk si rompe e tutti i miei dati sono concentrati in quel punto, perdo tutte le mie memorie digitali. Quindi una strategia di gestione e conservazione delle proprie memorie digitali è diventata una preoccupazione che deve riguardare tutti coloro che hanno uno o più PC, proprio come ci si preoccupa per esempio che i propri beni siano al sicuro, di avere per esempio un impianto di sicurezza ben funzionante, piuttosto che di avere una buona assicurazione. Anche perché spesso succede che i dati vengono persi e dopo uno si comincia a preoccupare, un po' come le assicurazioni. Ho fatto l'assicurazione perché mi hanno rubato, oppure perché ho fatto... Normalmente ci si scotta prima. Sì, esatto. Sì. Giuseppe da Siracusa, benvenuto, grazie di averci chiamato. Grazie a voi, signor Pagliadini. Ascolti, io sono un vostro ascoltatore da tanto tempo. Mi chiedevo, siccome siamo in tanti i vostri simpatizzanti che ascoltiamo in macchina, come mai voi che vi occupate tanto di tecnologia nessuno pensa invece alla tecnologia digitale per le autoradio, per le trasmissioni in macchina, dato che se ne occupa di tanto di televisore, ma ah, sì. Non in macchina. Sì, adesso le rispondo. Tenga presente però, e questo lo sottolineo visto che molti ascoltatori ci scrivono e dicono voi che vi occupate, dicono perché non fate questa cosa? Noi facciamo i giornalisti, raccontiamo cosa sta succedendo, poi non possiamo decidere delle strategie degli editori radiofonici di come fanno e men che meno di quello che l'industria della tecnologia fa e farà. Però ho una ottima risposta, spero che sia ottima. Vorrei sentire, a proposito di radio, Stefano da Livorno. Benvenuto Stefano. Sì, buonasera, complimenti per la trasmissione. Grazie Stefano, senta, l'ascoltiamo. Io volevo esprimere la mia perplessità sulla radio Wi-Fi, diciamo, praticamente sarebbe un client stand alone per ricevere la radio internet in casa, giusto? Se sì, sì, esattamente, capito. Sì. Ecco, in pratica io, siccome è un apparecchio che nasce ora, non vorrei trovarmi acquistandolo, magari col fatto che fra un po' di tempo cambiano i protocolli, io mi trovo con un apparecchio difficilmente aggiornabile e quindi con un apparecchio che non funziona più. Mentre la radio, quella standard analogica, sfrutta una tecnologia che da decine d'anni e presumibilmente per ancora molto tempo sarà quella, perché è usata da milioni di persone, una radio internet hardware, ho paura che poi non sia utilizzabile. Ora, finché uso un software sul computer, aggiorno il software e finisce lì, però a comprare un apparecchio standalone, se poi il produttore non mi rilascia un aggiornamento, potrebbero essere guai. Sì Stefano, ha ragione, ma questo è un po' il rischio che c'è nelle tecnologie. Gianfranco, vuoi esprimere il tuo parere? Grazie. Grazie Stefano. Sì, questo grazie. Quello che dice il nostro ascoltatore è corretto a livello diciamo di principio. In realtà poi alla fine non è ancora successo, anche se le radio che si collegano a internet ci sono da molti anni, che una piattaforma venga abbandonata a se stessa, non venga più supportata e non riesca più a sintonizzarsi con le radio digitali. Diciamo che è un piccolo rischio che ci si porta in casa in cambio di che? Beh, in cambio di potersi collegare con le emittenti di tutto il mondo al volo. Vogliamo ascoltare una radio cilena, tanto per dire una cosa, ecco, con un apparecchio di quel tipo in pochi secondi siamo collegati con tutte le migliori radio cilene, piuttosto che argentine, piuttosto che di qualsiasi altra nazione. Questo è un vantaggio che le radio FM ovviamente non hanno. Rispondo a Giuseppe che ci chiamava da Siracusa dicendo: perché non fate un sistema digitale per ascoltare la radio in mobilità in automobile? Allora, potrei riassumere la situazione così. La radio digitale può essere o quella che viene trasmessa attraverso internet, e abbiamo appunto parlato poco fa di questa possibilità, e quindi la si può ricevere o attraverso radio stand alone che stanno da soli, radio vere e proprie, apparecchi veri e propri che si connettono ad internet e in quel modo si può ascoltare la radio, oppure attraverso il computer. Questa possibilità si sta gradualmente estendendo, ma siamo ancora a livello quasi sperimentale, anche alle automobili, perché gradualmente le automobili cominciano ad avere un accesso ad internet, quindi in quella situazione qualche cosa si sta vedendo nei saloni dell'auto in giro per il mondo. Negli Stati Uniti sta arrivando qualche auto che si connette ad internet, qualche proposta esiste anche in Italia, ma qua siamo ancora molto indietro, però questa è una prospettiva. L'altra prospettiva si chiama DAB, D-A-B, Domodossola Ancona Bologna, che sta per Digital Audio Broadcast. Se ne parla dal 1990, ci sono sperimentazioni in atto in tutto il mondo, anche in Italia. Possiamo dire che in Italia il quadro regolamentare è oramai completo. Gli editori radiofonici stanno attendendo di ricevere dal Ministero dello Sviluppo, che ha le competenze anche per le comunicazioni, i cosiddetti diritti d'uso e poter cominciare a fare un servizio commerciale. Naturalmente anche in questo caso serviranno ricevitori in grado di ricevere il DAB, in modo particolare ultimamente una codifica che si chiama DAB Plus. Effettivamente stiamo aggiungendo complessità al mercato. In questo modo quasi tutti gli editori stanno facendo sperimentazione, stanno trasmettendo in buona parte del territorio nazionale in questa nuova tecnologia che permette di ricevere in, si dice, qualità CD, quindi maggiore qualità rispetto all'FM, ma lo sviluppo sarà sicuramente lento e appena ci sarà un lancio commerciale di questo ne parleremo, ma siamo ancora alla fase sperimentale. Questo è 2024, ci risentiamo tra un minuto. 2024. Visto che stiamo parlando della radio digitale, poi parleremo invece delle altre cose che stanno nelle nostre case digitali, ne approfitto anche per ascoltare Raimondo che ci chiama da Genova, poi chiudiamo il capitolo radio. Raimondo, benvenuto, grazie. Buongiorno, signor Pagliarini. Io ho comprato una radio digitale e dato spesso sento Radio 24, ogni volta mi sento sintonizzo sulla vostra emittente, l'ora mi scatta di 10 ore indietro. Lei ha comprato una radio digitale che ascolta in FM? Sì, anche. Vabbè, allora ho capito. Lei forse ha installato una funzione che corregge l'orario con il segnale RDS. Basta staccare quella funzione. Comunque adesso lo diciamo anche ai nostri tecnici, ma è un dettaglio che penso che pochi utilizzino. Basta staccare la funzione RDS di correzione dell'orario. Dunque Gianfranco, stiamo parlando di dati, di salvataggio dei dati. Tu ci hai ricordato che è importante questo aspetto. Tra poco avremo anche una persona che vogliamo coinvolgere in questa discussione, perché sta nascendo una nuova modalità per salvare i dati, cioè quella online. Di cosa stiamo parlando? Perché allora, un'ipotesi è quella di avere un hard disk, questi aggeggi si chiamano NAS, NAS di rete in casa. Sì, Network Attached Storage, quindi sì. Storage collegato alla rete. Questi oggetti sono degli hard disk collegati appunto alla rete, autonomi, cioè si accendono, restano accesi 24 ore su 24 e permettono di far accedere tutti i computer collegati alla rete ai dati in esso contenuti. I modelli un pochino più sofisticati, ma assolutamente domestici, stiamo parlando di macchine assolutamente per la casa, posseggono al loro interno due dischi. In realtà non utilizzano questi due dischi per aumentare lo spazio disponibile, ma li utilizzano in cosiddetto RAID 0, quindi mirror, cioè ogni dato che viene scritto su un disco viene copiato identico anche sull'altro disco, in modo tale che in caso si guasti un disco c'è sempre l'altro disponibile. Addirittura in alcuni modelli, questi un pochino più sofisticati, si può staccare a caldo un disco e infilare un nuovo disco e ottenere il riallineamento dei dati sul disco nuovo, in modo tale che in caso di guasto di un disco si è protetti. Il guasto bloccante invece, quello che ci fa perdere tutti i dati, è quello che fa guastare tutti e due i dischi contemporaneamente, quindi quello certo è un problema. In realtà però non basta l'infrastruttura disco, ci vuole ordine mentale nel fare proprio ordine nei propri file, e questa è la prima cosa che deve avvenire a casa nostra e basta. Però un'altra soluzione che può essere affiancata a quella del NAS è quella di avere i dati nella cloud cosiddetti, quindi i dati copiati su internet. Un'altra volta su internet. Quindi supponiamoci venga un allagamento a casa che faccia affogare il nostro NAS e quindi anche se può avere uno, due o cinque dischi non c'è niente da fare, tutti i dischi probabilmente sono persi. Oppure ce li rubano. Ecco, se i dati sono copiati comunque da un'altra parte, il danno sarà limitato al costo dei dischi, al costo del NAS, che comunque stiamo parlando di qualcosa che sta sotto i 500 euro, tanto per intenderci, ma non le nostre memorie per le quali saremo disposti a spendere molto, molto di più. Basta comprare un nuovo disco, un nuovo NAS e ricopiare dalla rete, da internet, dalla cloud, a un servizio dove noi abbiamo depositato tutti i nostri dati, tutto. Ovviamente questi sistemi funzionano meglio tanto più sono automatici, cioè tanto più il trasferimento dei dati dai nostri dischi, dal nostro computer alla rete avviene quasi senza che ce ne accorgiamo ogni volta che aggiungiamo un file, perché sennò bisogna ricordarsi di fare le copie di backup e non sempre poi alla fine ci si ricorda di fare questa operazione, oppure guarda caso il guasto interviene proprio poco prima che si voleva fare. Sì. Saluto Michele Costantini, che è uno dei fondatori di bottediferro.com. Costantini, benvenuto. Buongiorno ai vostri ascoltatori. La vostra è una startup, vi ho incontrato mi pare un paio di anni fa all'interno dei percorsi dell'innovazione a Smao, una startup che è ospitata presso l'incubatore di impresa di Venezia. Mi sembra una buona idea. Ho detto prima che nel mondo stanno nascendo, sono già nati da qualche anno, servizi che ci permettono di fare il backup online, quindi di non avere addirittura o solo pochi dati salvati in casa, oppure addirittura nulla, perché possiamo utilizzare la rete come serbatoio per scaricare i nostri dati. Beh, voi avete chiamato la vostra azienda Botte di Ferro, che già da qua si capisce, ma se doveste spiegare che cos'è Botte di Ferro e questo servizio, così come ce ne sono tanti altri, come lo spieghereste? Sì, certo. Allora, Botte di Ferro può essere diviso a livello di funzionalità in due settori. La prima è il classico backup online, per cui la possibilità di avere una salvaguardia dei propri dati caricandoli direttamente all'interno della nuvola, diciamo. E la seconda invece, troncone importante delle funzionalità, è quello invece della collaborazione online. Per cui una volta che io ho sfruttato le capacità di carico, ho investito le mie risorse per caricare il mio archivio online, tenerlo chiuso all'interno di un cassetto senza poterci far nulla, diciamo che è un po' uno spreco, per cui do la possibilità ai miei collaboratori o alle persone a cui ho bisogno di far accedere a determinate parti dell'archivio di avere accesso, avendo un monitoraggio completo di quello che possono o non possono fare. In questa maniera qua ho sia la sicurezza di avere un qualcosa che mi preserva in caso di disastro, sia la velocità e la tranquillità di poter collaborare con sedi distaccate e con collaboratori magari distanti senza usare l'email, per cui con il problema delle revisioni, o le chiavette con tutto quello che si portano appresso quando si inseriscono in più computer, diciamo. Questo un pochino è un'infarinata generale di quello che offriamo col servizio di Botteriferro. Dunque, se uno guarda nel mondo, di questi servizi ce ne sono decine. Adesso un ascoltatore, alcuni ascoltatori ci fanno dei nomi, uno dei più famosi che ci viene segnalato è Dropbox, ma potrei citare Box, Memopal, Carbonite, Mosi, potrei andare avanti per una decina di minuti, perché io ho fatto una ricerca in questi giorni, ci sono veramente decine di servizi. Alcuni servizi danno 1 giga, 3, 2, 3 giga, 5 giga gratis, e poi alcuni danno 50, 100, 250 giga a prezzi che variano dai $20 ai $50 al mese, perché quasi tutti questi servizi sono su abbonamento. Ma al di là del costo, poi parliamo magari anche della proposta che fate voi, ma uno potrebbe obiettare e dire: ma io con il costo dell'abbonamento di un anno mi pago un bel hard disk. Non mi conviene forse comprarmi un bel hard disk, dopodiché mi sono dimenticato, mentre abbonandomi a uno di questi servizi divento abbonato per tutta la vita se non voglio perdere i dati. Costantini. Allora, diciamo che se io sto a vedere esclusivamente il rapporto costo-spazio di storage, di backup, diciamo che la scelta più conveniente è quella di avere un hard disk in casa. Naturalmente questa scelta però porta con sé dei costi nascosti che non vengono visti immediatamente. Il fatto intanto di avere una capacità di poi installare all'interno del proprio computer l'apparato che farà sì di trasferire tutti i file che vogliamo, per cui ci vuole anche una certa competenza informatica. E in caso di problematiche ci sono costi di consulenza per far sì che questo si risolva. Dopo alcuni mesi c'era da fare degli aggiornamenti, dopo un anno magari le licenze del software che ho installato per fare il backup sono scadute e vanno rifatte, senza considerare tutti i costi annessi ad errori umani di errata implementazione e errata gestione del tutto. Per cui se uno sta a vedere il totale dei costi, diciamo che la soluzione di avere un qualcosa invece in servizio, come software come servizio, per cui in abbonamento, ha sempre l'ultima versione, ha un qualcuno cui chiamare in caso di bisogno, ha le funzionalità che man mano vengono rilasciate, ha la possibilità di avere il tutto sempre online, per cui diciamo che costi-benefici, comunque l'ago della bilancia viene spostato a livello di una soluzione via web. Se uno invece sta a vedere esclusivamente il costo dello spazio web, allora conviene comprarsi la disk, però non è questo. Certo, se uno guarda solo al prezzo, però non guarda insomma al totale della torta. Fabio da Padova, buongiorno. Sì, buongiorno. Io uso già appunto da molti anni il sistema di backup online. Che cosa? Quale? Backupaziendale.it. Ah, quindi è una roba aziendale. Sì, per l'azienda, perché ritengo sia molto importante non perdere nulla, soprattutto contabilità, gestione clienti e queste cose qua. E volevo aggiungere alle cose che diceva prima tra i vantaggi del backup online, intanto che c'è un'altra entità che controlla i miei backup, quindi io posso anche sbagliare a fare il mio backup, ma c'è appunto il mio fornitore di abbonamento che mi controlla il fatto che i miei backup siano funzionanti, e questa è una cosa che ritengo importante. Volevo chiedere conferma sul fatto della crittografia dei dati. Il software che uso io crittografa i dati prima di inviarli al sistema di backup e online anche la stessa azienda che mi fornisce questo servizio non è in grado di leggere i miei dati perché sono crittografati con una mia chiave. Quindi c'è privacy, quindi nessuno può vedere. Perfetto. Volevo avere conferma di questa cosa e ricordare anche a chi usa questo tipo di tecnologia che la chiave bisogna salvarsela su carta, fra virgolette, altrimenti se la chiave è all'interno del computer che poi si danneggia, certo. Il backup è fatto e funzionante, ma nessuno può accendervi i dati. Esatto. Grazie Fabio, effettivamente è vero, oltre a questo che diceva sulla chiave di crittografia, che è la parola d'ordine, diciamo, per riuscire a decifrare i dati che ho salvato, la domanda è: ma quale sicurezza io ho che caricando i dati addirittura in hard disk, in server che sono dall'altra parte dell'oceano, poi nessuno li vada a vedere? Perché finché sono fotografie che io ho fatto al mare, in spiaggia, è un conto, anche se effettivamente non capisco perché uno debba andarle a vedere. Però se sono documenti, io devo essere sicuro che quelli siano protetti. Costantini, che garanzie ci sono sulla privacy? Allora, noi adottiamo le misure di sicurezza dei dati, le ultime presenti sul mercato. Abbiamo l'accesso protetto da cifratura durante la connessione del software e anche dal sito web. I file vengono cifrati all'interno del software prima dell'invio. In più, in caso di utilizzo assolutamente, diciamo, a livello proprio di nuvola totale, per cui senza l'utilizzo del software, ma andando a caricare direttamente i file dal sito web, c'è la possibilità di andare a cifrare con una password integralmente con tecnologia AEX a 128. Sì, beh, non andiamo. Ma Costantino, okay, però mi sembra che da questi discorsi, questi siano servizi, ma è una domanda, siano rivolti più alle aziende che ai consumatori, mentre invece vedo che su internet ci sono molti servizi rivolti anche agli utenti casalinghi. Voi a chi vi rivolgete, visto che avete anche un servizio gratis? Diciamo, noi abbiamo, ci rivolgiamo a tutte le persone che hanno bisogno di salvaguardare i propri dati e la possibilità di condividere il proprio materiale tramite internet. Non pensiamo che le esigenze di un'utenza privata siano inferiori a quelle aziendali, per cui noi cerchiamo di offrire il miglior servizio, le migliori funzionalità sia a un utilizzo, diciamo, Quanto privato, costa? Per cui dalla tesi di laurea. Quanto costa? Allora, abbiamo il pacchetto quello base, che è zero, sono 1 GB ed è per l'utilizzo privato, per cui uno ci fa quello che vuole, e poi abbiamo invece la possibilità di creare 5 collaboratori più l'amministrazione, per cui 6 persone che utilizzano lo stesso account, a 199,50 €, per cui grosso modo 30 euro a testa. Le chiedo una risposta veloce, ci sono servizi, se uno va su internet, anche più economici, che mi danno più spazio. Voi avete fatto questa startup e a questa obiezione come rispondete? Che se uno sta a vedere il discorso dello spazio web, ritorniamo a prima, noi offriamo dei servizi a valore aggiunto, tra cui la possibilità dell'editing online dei file, la cifratura direttamente sui server da parte dell'utente, possibilità di avere collaboratori, preview del file, abbiamo il software, qui c'è una serie di assistenti in italiano, tutto in italiano per la... Chiaro. Sentiamo Renzo che ci chiama da Venezia. Renzo, buongiorno. Buongiorno. Io volevo riportare la mia esperienza riguardo i backup online. Io mi sono interessato ai backup online appunto verso la fine del 2010. Ne ho parlato con gli amici, tutti quanti mi dicevano è impossibile, è troppa roba da spostare. Io ho detto vabbè, vi dimostro che la cosa si può fare. Ho scandagliato tutto il mercato e ho trovato quello che era il player che tra l'altro è uno dei più grossi al mondo, non faccio il nome. No, ma lo faccia pure, che problemi ci sono? Vabbè, il nome è Mozi. Mozi, sì, famosissimo. È una costola dell'MC, quindi coloro i quali hanno in mano gli hard disk del mondo. Sì, sì, numero uno al mondo, sì, sì. Esatto. Servizio offerto ad un prezzo concorrenziale. 4,95 dollari al mese. Ho detto vabbè, 60 dollari posso anche spenderli all'anno per backupare la mia parte di cose personali. Fatto un rapido conto, avevo circa 350 giga di cose personali, foto, filmati e documenti di lavoro. Ho cominciato verso la fine del 2010. Sì, arriviamo al dunque, non facciamo tutta la storia. E ho finito il mese scorso, in questi giorni. Cioè si è messo 4-5 mesi. Esatto, questo per dire intanto che è un problema a livello di reti, perché l'upload che riusciamo a fare con le nostre reti qui in Italia è un problema effettivamente. Non credo che 350 giga siano una follia, sia una cosa media, medio-alta forse, ma non così fuori standard. La cosa che mi ha dato molto fastidio è che ho ricevuto 15 giorni fa una lettera da parte di Mozi, il quale mi dice: il servizio Unlimited è sospeso, cade, da ora in poi avrai con questa cifra a disposizione 50 giga. Sì, sì. Infatti questa è una tendenza, ha fatto bene Renzo a ricordarcelo, perché questa è una tendenza che ho notato su internet. Abbiamo recentemente parlato di chi offre le connessioni ad internet, faccio un parallelismo. Chi offre le connessioni a internet, che sta vedendo che il traffico generato dagli utenti sta aumentando talmente tanto che si cerca di limitarlo un po', e la stessa cosa sta succedendo a questi servizi. Farò rispondere a Costantini tra poco, così un'analisi del mercato generale. Adesso c'è la pubblicità, riprendiamo tra poco. 2024. Stiamo parlando della Casa Digitale a 2024, il nostro numero verde 800 24 0024. Prima Renzo, che ci ha telefonato da Venezia, Gianfranco ci diceva: ci ho messo 4 mesi per uploadare. Qua torniamo ad uno dei punti che ogni tanto tocchiamo, cioè quello dei problemi di infrastruttura di rete, non tanto di questi servizi. Anche perché le collegamenti domestici, le classiche ADSL domestiche, hanno performance buone in download ma spesso molto basse in upload, quindi nel caricamento dei dati da casa verso un servizio esterno, anche perché navigando web quello che si fa normalmente è che si scaricano cose, non si caricano. In questo frangente il caricare i dati sul servizio può essere molto lento a seconda della connessione. È chiaro che noi speriamo e auspichiamo sempre che le connessioni migliorino e arrivino a dei livelli quantomeno decorosi, o come succede con la fibra, simmetrici, quindi dove l'upload e il download è assolutamente a pari performance, anche perché ormai non è che l'interazione che un utente ha con web sia solo di download, quindi solo di scaricamento. Sempre c'è anche molto upload, perché c'è scambio tra gli utenti, sì, sì. Scambio di informazioni, caricamento nella cloud, e quindi è chiaro che l'upload serve tanto quanto il download. Questo effettivamente è un esempio di quanto sia necessario oramai uploadare, quindi come cambia il rapporto con la rete. Costantini, un'ultima domanda, un'ultima considerazione: effettivamente in questo mondo di servizi online, di storage, chiamiamolo così, di archiviazione dei dati, e le chiedo un'analisi al di là del vostro caso, visto che voi però siete in questo business, sta succedendo quello che ci diceva prima l'ascoltatore, cioè che gli utenti si sono fatti prendere la mano e, visto che hanno molti dati, li buttano tutti in rete, quindi le aziende, soprattutto quelle che offrivano servizio illimitato, stanno correndo ai ripari? Ecco, sì, purtroppo diciamo che il concetto di illimitato, come tutti potete immaginare, è un concetto un po', insomma, particolare, un po' strano da analizzare. Posso consigliare solo agli ascoltatori di tenere ben d'occhio il contratto che si va a sottoscrivere quando si vanno a registrare all'interno di servizi che offrono così tanto, cioè l'illimitato a cifre così basse, per non trovarsi poi in spiacevoli sorprese. Ma lo spazio web, lo spazio di storage, diciamo così, il prezzo di questi servizi, visto che anche voi utilizzate servizi americani, sta calando effettivamente oppure no? Certo che sta calando, sta calando. Sì, con l'avvento delle nuove tecnologie, no. Lo storage di per sé, per cui l'ampiezza di disco, è in continuo calo, con quello che si poteva acquistare 3-4 anni fa, adesso è preistoria praticamente. Il problema sono i collegamenti per arrivare a questo posto, per cui tutti cominciano a fare un largo uso della connessione internet, e a questo punto le soluzioni sono due: o si investe in infrastrutture, o si alza i canoni in modo tale da limitare l'accesso alle persone. Da stare molto attenti su questo punto qua, insomma. Chiaro. Grazie Michele Costantini, bottediferro.com, in bocca al lupo. Grazie mille, Crepi. Visto che siete ancora nella fase di startup, giusto? Sì, diciamo startup avanzata. Startup avanzata. Bene, bene. Maria Chiara Grandis, tu sei a Bologna, come ci dicevi poco fa, hai fatto un po' di domande nel punto vendita dove ti trovi, giusto? Sì, esatto, Enrico. Abbiamo anche cercato un po' di capire come i consumatori poi si rapportino anche con il personale che c'è qui, cosa chiedano, quali siano i loro dubbi. E allora noi, per fare un po' il punto della situazione, abbiamo sentito Giuseppe Lamattina, che è il responsabile delle vendite qui all'area informatica, e anche il direttore del punto vendita, che è Fabrizio Gabbianelli. Possiamo sentire le interviste. Le domande classiche sono proprio quelle: posso collegare questo dispositivo con questo dispositivo? E se sì, tramite quale altro dispositivo? Si spende molto oggi per avere una casa digitale. Come costi adesso sono sicuramente, credo, a un livello minimo storico. È possibile fare degli impianti molto interessanti senza investire cifre da capogiro. Cos'è che spaventa di tutta questa tecnologia? Spaventa soprattutto il fatto di acquistare un prodotto che in poco tempo può diventare obsoleto, visto che la velocità con cui ormai i prodotti si evolvono è veramente spaventosa effettivamente. Molta gente, prima di effettuare un acquisto, ci ragiona molto perché ha sempre la paura di, tra virgolette, rimanere sempre indietro pur avendo acquistato l'ultimo prodotto, l'ultima tecnologia disponibile. E c'è un mercato di chi vuole cambiare questi strumenti? Visto la velocità di evoluzione dei prodotti informatici, è scomparso anche il mercato dell'usato praticamente. Chi è attento a queste cose appunto vuole sempre avere l'ultimo ritrovato tecnologico e non si accontenta magari, cioè preferisce spendere qualcosina in più e avere appunto proprio l'ultima cosa uscita piuttosto che ripiegare su un prodotto che già dopo 6 mesi è diventato obsoleto. Quali sono le difficoltà che avete nello spiegare queste nuove tecnologie? La difficoltà può stare soprattutto nel cercare di far capire al cliente che è la solita storia, l'utilizzo è molto più semplice di quello che può sembrare. Adesso la tecnologia fa proprio sì che chiunque possa avvicinarsi a un dispositivo del genere. Molti però, avvicinandosi per la prima volta a questi dispositivi, soprattutto gente magari di altre generazioni, ne rimangono un po' alla larga ancora. E quindi col tempo il tuo lavoro si fa più facile o più difficile? No, secondo me è più facile perché l'attenzione sta aumentando da parte del cliente, quindi molti arrivano effettivamente già abbastanza preparati per effettuare, non dico autonomamente l'acquisto, ma insomma. Per quanto riguarda la Powerline, voi ve ne occupate, le vendete, sono richieste? C'è molta più richiesta rispetto ai mesi, ai periodi precedenti, la vendita quindi è legata un po' anche alla diffusione mass mediatica. Sono forse anche più persone giovani che fanno richieste di questo tipo? Sicuramente sì, però io ho notato un certo aumento di persone, chiamiamole non più giovani, addirittura anche persone anziane, che si stanno avvicinando in maniera entusiasta, oserei dire, al mondo del digitale, partendo proprio dal computer. I servizi cloud-based vengono richiesti? Qualcuno fa qualche domanda? Sicuramente non c'è ancora grandissima diffusione. Invece i network media player sono conosciuti? Ancora molto limitatamente, però stanno crescendo anch'essi. Sono le 16:42 minuti, questo è 2024, l'ultima voce che abbiamo ascoltato era quella di Fabrizio Gabbianelli, che è direttore del punto vendita Marco Polo Expert di Bologna, dove c'è Maria Chiara Grandis. Con lei ci collegheremo ancora una volta tra poco, anche per capire qualche prezzo, visto che abbiamo parlato di alcune soluzioni, alcuni prodotti. Gianfranco, che cosa sono i media player, network media player? Sono degli apparecchi che da un lato, diciamo, hanno una connessione di rete dalla quale traggono anche questi, i contenuti, ovviamente sì, oppure si collegano Wi-Fi e offrono una serie di uscite che normalmente sono audio-video, tipicamente HDMI per collegamento a un TV, e permettono di navigare dei contenuti che sono presenti sulla nostra rete locale oppure dei contenuti che arrivano da internet grazie a dei servizi che sono, come dire, già pre-impostati su questi apparecchi, tipo potrebbero dare per esempio accesso a tutta la library di YouTube, quindi tutti i video di YouTube. Sono degli interpreti praticamente tra il mondo digitale della rete e il mondo audio-video di tutti gli utilizzatori, sia audio appunto, sia soltanto per l'ascolto di musica, sia per la visione di filmati o anche per la consultazione di dati. Ti risulta quello che ci diceva poco fa Gabbianelli, cioè che siano ancora poco conosciuti, poco utilizzati? Allora, c'è da dire questo, sono ancora poco conosciuti dalla grande massa, sì, anche se in realtà l'utilità che portano in casa è molto alta. Sono molto conosciuti da degli utenti, forse di nicchia, ma un pochino più tecnovocati, diciamo così, che molte volte, siccome sanno già precisamente cosa vogliono, e si rivolgono a dei canali di acquisto via internet, e quindi non mi stupisce che poi il negozio fisico in qualche modo veda questo cambiamento un pochino dopo, anche perché è un po' il cane che si morde la coda, non hanno ancora grande domanda sul mercato, quindi la loro diffusione nei negozi non è ancora sufficiente. Se un utente cerca quella marca e quel modello, avrà più facilità a trovarlo su uno store su internet piuttosto che in un negozio fisico, ma questa è una tendenza che è destinata comunque a proseguire. Non tutti sanno che ce l'hanno già in casa un apparecchio di questo tipo. Cioè? Cioè, per esempio, le principali console, parlo di PS3 e parlo per esempio di Xbox 360, sono di fatto dei gateway verso internet, cioè permettono di accedere a contenuti che stanno sia sulla rete locale che su internet, né più né meno come fanno questi apparecchi. Beh, adesso c'è il traffico, poi sentiamo Marco che ci telefona da Milano. 2024. L'ultima parte di 2024, saluto Marco che ci telefona da Milano. Buon pomeriggio, Marco. Buon pomeriggio, grazie. Sì, io ho acquistato un appartamento da poco tempo e sto dedicandomi un po' allo studio del cablaggio interno dell'appartamento, appunto, e volevo un pochino il vostro parere sull'opportunità di affiancare al consueto cablaggio in rame categoria 5, categoria 6, che più o meno dovrebbe essere sufficiente per tutti i flussi dati, anche perché l'uplink verso internet, per quanto veloce, ho 100 megabit fibra, quindi ci sta e ci avanza. Anche un cablaggio in fibra ottica interno all'appartamento, non tanto per l'accesso a internet quanto per i flussi audio-video fra le stanze e dal video server alle stanze. E se ci sono degli standard da seguire per questo cablaggio in fibra eventualmente, anche per i connettori. Tu, Marco, sai di essere un privilegiato perché il collegamento a 100 megabit in fibra in Italia ce l'hanno in pochi. È attivo su Milano da poco tempo, appena ho saputo della possibilità e dell'offerta di lancio l'ho sottoscritto e funziona veramente bene, 85-90 megabit li ho misurati verso dei siti interni alla MAN di Fastweb, naturalmente verso l'esterno la cosa cambia. Comunque le prestazioni verso internet le raggiunge, però l'opportunità del cablaggio in fibra la stavo considerando più che altro perché la struttura che volevo dare all'impianto era qualunque fonte visibile da qualunque stanza. Sì, certo. Distribuzione di flussi audio-video non solo su gigabit categoria 6, ma forse fibra. Scusa Marco, approfitto del fatto che tu sia al telefono con noi, visto che alcuni ascoltatori ci scrivono, ci domandano, ma cosa servono 100 megabit? Perché una delle cose che si dicono spesso quando si parla della rete di prossima generazione da realizzare, proprio l'infrastruttura nazionale di prossima generazione, si dice avremo collegamenti che andranno a velocità pazzesco, oppure quando si parla di paesi stranieri, se si fa riferimento al mitico Giappone, là ci sono connessioni a un gigabit. Tu che cosa te ne... cioè non ti bastavano 10 megabit? Beh, diciamo che ad esempio quando devo scaricare una distribution Linux si parla di minimo 600-700 mega se sono quelle compatte o diversi giga, e in questo caso con la connessione fibra 100 megabit il tempo diventa molto più breve, poi accedo alla rete di casa dove ho un file server dall'ufficio o da altri appartamenti, quindi più è veloce la rete che interconnette questi punti più l'accesso risulta facile. E poi aiuta anche a eliminare il dubbio quando la fruizione di internet zoppica un po' che la colpa sia del collegamento. Ecco, il collegamento con la fibra ottica è stabilissimo, e, oltre a essere veloce, ma è soprattutto stabilissimo, mentre con la DSL in varie situazioni che conosco ho visto che ci sono spesso delle oscillazioni misteriose e non si sa mai a chi cosa dare la colpa. Con la fibra ottica questo dubbio non sussiste, se poi è veloce 100 megabit, però è asimmetrica rispetto alla 10 megabit. Lo so, purtroppo da questo ho avuto un'informazione da un amico che è un dirigente di Fastweb, so che la simmetria è stata decisa per ragioni commerciali, non tecniche, ai clienti business viene offerta simmetrica. Sì, da questo punto di vista io l'ho già fatto personalmente, lo faccio anche adesso alla radio, vanno tirate le orecchie a Fastweb perché effettivamente una connessione a 100 megabit andrebbe data in simmetria. Comunque è corretto quello che tu dici. Grazie Marco, non volevo eludere la domanda e nemmeno la risposta di Gianfranco Giardina sui cablaggi di casa, cosa molto importante perché, come avete sentito, oramai siamo pieni di cose che si connettono ad internet, anche i televisori. Poco fa c'era un ascoltatore che diceva via SMS: perché dite i TV? Beh, perché il televisore è maschile. La televisione invece è quella che noi guardiamo, non è quella che abbiamo in casa. La televisione è lo standard di trasmissione e sono i contenuti. Il televisore è l'apparecchio televisivo. Bene. Allora, parliamo di collegamento in casa e collegamento in fibra. Allora, non esiste uno standard domestico per l'utilizzo di fibra in casa, soprattutto non esistono utilizzatori, cioè apparecchi, in grado di collegarvisi. L'unico utilizzo che viene fatto per la fibra in casa è soltanto per i collegamenti audio digitali, ma sono il cosiddetto appunto collegamento audio digitale in fibra ottica, che viene utilizzato tra, per esempio, DVD player e amplificatore, ma non è certo quello di cui stava parlando il nostro ascoltatore. Io penso che con una connessione in categoria 6 gigabit Ethernet ci sia banda a sufficienza per qualsiasi applicazione domestica, anche per diversi utilizzatori contemporanei in casa, di contenuti di flussi digitali in alta definizione. Non scordiamoci che un flusso in alta definizione di splendida qualità, flusso audio video di splendida qualità, può occupare 10, 12, 15 megabit e quindi sommiamone anche diversi prima di arrivare al gigabit della banda Ethernet, direi che ce ne vuole molta, quindi non abbiamo grossi problemi. Tra le altre cose, la fibra non avrebbe, appunto, come dicevamo, apparecchi ai quali attaccarsi, quindi andrebbe fatto un troncone in fibra per poi tradurlo un'altra volta in Ethernet, e quindi direi tanto vale, sempre che uno non abbia una situazione di più che una casa, direi un condominio, una villa, in cui vuole fare una dorsale in fibra, per esempio per raggiungere distanze che Ethernet fatica a raggiungere. Quindi ho visto delle installazioni di questo tipo in ambito domestico, diciamo così, in una grande villa che aveva un corpo centrale e una dépendance, e i 220 metri che collegavano il corpo centrale con la dépendance erano coperti con una dorsale in fibra, per poi tornare in gigabit Ethernet sia nella dépendance che nella villa. Saluto Silvia che ci telefona, anche lei da Milano. Benvenuta Silvia. Sì, pronto? Ti ascoltiamo. Sì, buongiorno. Volevo confermare questa sua ultima affermazione riguardo la connessione domestica. Io utilizzo una connessione assolutamente standard, la lascio aperta di proposito in maniera tale che chiunque si possa collegare. Cioè lei utilizza il Wi-Fi? Io utilizzo Wi-Fi, ecco, sì. Okay. Sì. E tra l'altro con un gestore, con un contratto assolutamente normale, nulla di prestigioso. E devo dire che la qualità della mia connessione rimane assolutamente invariata e inalterata, indipendentemente dal numero di collegamenti che si manifestano anche durante l'attività di connessione, sia che io utilizzi il servizio in streaming piuttosto che una normale attività di navigazione. Nonostante altri utenti si colleghino, questo non comporta nessuno svantaggio nel servizio. Quindi lei ha una buona connessione, ha un buon Wi-Fi. Ho una connessione, guardi, buona, sì, ma comunque nata con un contratto assolutamente standard. Senta, perché tiene aperta il Wi-Fi? Lo tengo aperto perché, come le ripeto, questo non comporta nessuno svantaggio nel mio servizio. Sì, però lei lo sa che se qualcuno malintenzionato si connette al suo Wi-Fi, qualche danno lo può combinare. Qualche danno lo può combinare nel momento in cui poi eventualmente si verificherà. Io credo che ci siano anche dei sistemi tali per andare poi a risalire a chi è il vero autore. Beh, guardi, su questo non è proprio così. Io fossi in lei, un blocco con la password lo metterei, però insomma registriamo la sua testimonianza e la ringraziamo. Silvia, grazie, buona giornata, buon lavoro, buon weekend. Grazie, altrettanto. Maria Chiara Grandis, chiudiamo questo collegamento. Ricordiamo che tu sei a Bologna, ad un punto vendita Expert, giusto? Esatto, in via Cristoforo Colombo. Senti, io ti ho domandato, vai a fare un giro per raccontarci qualche prezzo. Ad esempio, Una coppia di adattatori Powerline, visto che abbiamo parlato di questa tecnologia che è fantastica, molto interessante, quanto costa? Ma varia fra i 70 e i 130 euro circa. Gianfranco, si trova anche a meno? Si può trovare qualche forse offerta speciale poco sopra i 50 euro, se si è fortunati, ma comunque i prezzi sono quelli per una coppia di adattatori, quindi che permettono di avere un link completo da un punto all'altro della casa. Maria Chiara, ad esempio un NAS quanto costa? Ma intorno ai 100 euro. Da quanto? Da che dimensioni? Non abbiamo controllato. Non avete, tirata d'orecchie. Gianfranco. Probabilmente quel prezzo saranno NAS senza disco, cioè sono venduti dei NAS senza disco perché poi si può inserire un disco per PC qualsiasi, quindi uno può avere in casa il disco, comprare il disco sul mercato dei componenti senza problemi. Bene, io ringrazio Maria Chiara Grandis per essere stata con noi in collegamento. La prossima settimana dove sarai? Siamo a Milano, in Viale Certosa al Saturn. Milano, benissimo. Noi concludiamo questa puntata di 2024, ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, se volete scriverci, 2024@radio24.it. Per riascoltare questa puntata, del resto tutte le puntate di 2024, potete andare sul nostro sito www.radio24.it nelle pagine di 2024. Grazie a Gianfranco Giardina, responsabile del magazine online dday.it. Ciao Gianfranco. Grazie mille. Io ringrazio Roberto Scaltritti che si è occupato della parte tecnica, Viola, Rosa e Giorgio che ci hanno supportato in questa puntata. Io sono Enrico Pagliarini, tra poco Carlo Genta con lo sport, prima le notizie di GR24. 2024. 2024. 2024. 31 seconds in.